poi, sempre il nostro lavoro, chiuderemo ospitando un'altra residenza creativa di Alessandro Berti, che sta lavorando su un nuovo progetto che debutterà al Teatro di Casalecchio Genderbender. Quindi cerchiamo di fare circolare le idee, le energie e nuovi pensieri per un nuovo teatro. Benissimo. Tutti i riferimenti per il calendario e tutte le altre informazioni sul sito internet e sulla pagina Facebook? Naturalmente, lì trovate tutti i dettagli di questo programma che ho sintetizzato, perché è da un po' di tempo che abbiamo cercato di abbandonare, stiamo abbandonando un po' la forma del festival concentrato in pochi giorni e cerchiamo di fare questo per poterci dedicare appunto anche a questo principio di residenza, di accogliere artisti che stanno sul nostro territorio, incontrano cittadini, le persone. Per fare questo non possiamo concentrare tutto in 3 giorni, ma crediamo che questa semina è forse più importante dell'eventismo che a volte portano dietro i festival vetrina. E quindi, per avere i dettagli, andate sul sito, oppure se volete telefonateci a casa 051 670 4373. Benissimo, Stefano, è sempre un piacere, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, a prestissimo, ciao a tutti. Con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica per l'agenda della settimana teatrale. E Simone, ben trovato. Ah, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Elencaci tutto. Allora, questa è una settimana molto interessante perché c'è un passaggio di consegne, un passaggio che ormai è una sorta di classico ed è un passaggio che porta dal Festival Short Theater fino all'apertura di Roma Europa Festival. Quindi questa è una delle settimane più importanti del teatro a Roma. Bene, allora intanto direi di cominciare da un lavoro che abbiamo già visto lo scorso anno, che arriva dal 18 settembre a Roma, e la Medea per strada di Giampiero Borgia, Elena Cotugno e Fabrizio Sinisi, ospitato dal Teatro Liseo. È uno spettacolo un po' particolare che sarà inserito poi all'interno anche del Puglia Showcase, che sarà sempre a Roma nella settimana successiva. Dal 18 settembre si può vedere dal sito del Teatro Liseo. È una cosa molto particolare, si sta diciamo nella zona intorno a Via Nazionale, il Teatro Liseo. Si vede raccolti da un fulmino, dove a un certo punto arriverà una donna, questa Medea, una Medea dell'Est, che ci porterà all'interno di un racconto un po' macabro, come ovviamente per ciò che riguarda Medea. Quindi dal 18 settembre andrà in scena la Medea per strada, appunto per strada, in giro per Roma all'interno di un pulmino, ma per informazioni il sito del Teatro Eliseo. Andiamo avanti, perché apre la stagione del Teatro Biblioteca Quarticciolo, ancora questa settimana, già questa settimana, con dal 18 al 21 settembre uno spettacolo che ho visto, anche questo, l'ho visto non a Roma, ma Paola Berselli, Stefano Pasquini e Maurizio Ferraresi, ovvero sia il Teatro delle Ariete, portano a Roma attorno a un tavolo Piccoli fallimenti senza importanza. Si tratta di un lavoro attorno alla cucina, come spesso per ciò che riguarda il Teatro delle Ariete, c'è un tavolo per tanti invitati e i 3 attori accolgono gli spettatori, fanno accomodare attorno al tavolo, apparecchiano, cucinano e poi si mangia tutti insieme, si raccontano storie e momenti di vita teatrale tutti insieme attorno a questo tavolo. 18-21 settembre al Teatro Biblioteca Quarticciolo, che sarà uno degli spettacoli di teatri che seguiremo sicuramente di più per ciò che riguarda questa stagione. Ti dico che c'è l'apertura di una mostra a Teatro Valle, ormai giusto le mostre fanno, quella dedicata a Paolo Poi, grande attore del nostro teatro del secolo scorso e anche insomma per ciò che riguarda i primi anni del secolo attuale, curata dal dottor Di Gianmarco e dal compositore Andrea Parri, che è nipote di Paolo Poi. Dal 20 settembre fino al 4 novembre ci sarà questa mostra ideata appunto dal dottor Di Gianmarco, ma ospitata dal Teatro di Roma all'interno degli spazi del Teatro Valle. E direi di fare un piccolo salto per ciò che riguarda la stagione del Teatro Vascello, che ha deciso di aprire in danza, come già abbiamo detto la scorsa settimana, e The Crew Dance Company, The Kitchen Theory, è lo spettacolo che viene presentato al Teatro Vascello 21, 22 e 23 settembre. Quindi gravidanza per il weekend. Si tratta di una compagnia che nasce nel 1996 e porta questo lavoro che ha a che vedere con il primo luogo da raggiungere al mattino e l'ultimo da visitare prima di andare a dormire, quindi un lavoro che ha a che vedere con i luoghi. Infatti è una danza urbana quella che ci viene presentata dai coreografi Marisa Ragazzo e Omid Igani, 21, 22 e 23 settembre al Teatro Vascello. E poi insomma ci sono un po' di stagioni che non sono ancora cominciate, le aspetteremo per il periodo successivo. Io, Federico, ti vado giusto a ricordare che abbiamo il Festival Contaminazioni questa settimana al Teatro di Roma, sarà al Teatro India, qui ti segnalo il programma dettagliato che appunto è riscontrabile anche sul sito, ma ti segnalo un po' di cose. Si tratta di lavori che partiranno dal 18 settembre fino al 23. Provo a segnalarti qualcosa in particolare. Già domani forse vedrei una regia di Iris Basilicata, che non abbiamo visto in questi anni a Roma, con questo Candy, Memoria di una lavatrice, alle ore 18:30 nella sala B. Poi forse segnaliamo qualcosa anche per mercoledì 19, e magari questa Salome di Oscar Wilde, quindi un classico per la regia di Eros Pascale. Seguirà giovedì ancora una giornata dedicata al festival. Chissà cosa poter segnalare per questo giorno, sì, forse magari l'Hotel Excelsior con la regia di Claudio Cesaroni, mentre vedremo venerdì 21 per questa nuova apertura insomma sul teatro che poco conosciamo, e teatro dei più giovani. Magari segnaliamo fra i vari spettacoli che ci sono qualcosa, direi forse questo Sul Divano, scritto, diretto e interpretato da Marco Valerio e Michele Enrico Montesano con Francesca Petrella. E poi sabato 22 ancora segnaliamo qualcosa, forse L'Indegna di Luigi Siracusa. Si chiude domenica 23 con due spettacoli, l'evento di chiusura finale. Qui segnaliamo forse questo Chi sono io, quella di tra parentesi, quella regia di Francesco Vittorio Pellegrino. Quindi il Festival Contaminazioni, ospitato dal Teatro di Roma negli spazi del Teatro India, sarà in scena questa settimana ed è un po' un appuntamento che sta in mezzo tra varie cose, insomma, tra due festival come Short Theater e Romeo Europa Festival. Quindi dall'uno, come dicevo, passiamo all'altro, senza dimenticare, insomma, hai già parlato di Claudio Moricio, lo spettacolo che io ho visto, 46 tentativi di lettera a mio figlio, e mi sento anche personalmente di consigliarlo perché è qualcosa di molto molto intrigante. Credo che sia al momento il suo lavoro migliore. Sì, penso proprio di sì, ne ho parlato anche con lui, effettivamente ho visto un po' tutti gli altri. Il suo lavoro migliore, ma semplicemente perché è un lavoro di cuore e di pancia, insomma, fonda su un tema poco poco indagato. Invece trovo molto molto importante che il teatro lo faccia oggi, che diciamo il rischio di parlare anche di questo, insomma, del contatto con la generazione dei propri figli, ed è stato che magari forse non si è stati padri come si sperava, e chissà che padri saremo, chissà che padri potremo diventare. Quindi per ciò che riguarda invece Romeo Europa Festival, sì, si parlerà con Fabrizio Grisaldi. Io ti dico soltanto che si apre con un'opera di danza, ma con un attore, 9 danzatori, 4 musicisti, 2 cantanti e 40 figuranti, una cosa enorme che Serge Aimé Koulibaly porta, il coreografo, sul palco di Romeo Europa Festival. Inizieremo il 19 settembre con questo grande lavoro e poi seguiranno altre cose, ma te ne parlerà appunto Fabrizio Grisaldi. Io ti dico per ultimo che questa settimana torna una cosa un po' particolare, I Nasoni Raccontano, ossia un lavoro per strada, questa volta a Sorfigna Tara. Io l'ho visto a Centocelle, sono i vecchi ragazzi del Teatro dell'Orologio, per chi se ne ricorderà, qui firmano con La Città Ideale, e I Nasoni Raccontano è un progetto particolare, insomma, all'interno, io ricordo tutto, a Centocelle fu così, per un periodo c'è un laboratorio, insomma, in cui il quartiere lascia all'interno dei Nasoni di Roma le fontanelle delle storie, queste storie vengono raccolte e poi vengono portate in scena attraverso uno spettacolo corale da una compagnia di attori, ed è uno spettacolo che è itinerante all'interno del quartiere. Molto bello parteciparlo, sarà in due tornate, una già questa settimana, 22-23 settembre, la prossima settimana anche sarà, intanto noi ci vediamo questa 22-23 settembre i nostri raccontano a Storpini a Tara alle ore 20:30 di entrambe le sere al largo Raffaele Pettazzoni al Bocciofilo Sandro Pertini. Si partirà da lì e poi sarà itinerante per il quartiere. È tutto, Simone? È tutto, forse non l'ho detto, appunto, scritto da Fabio Morgan e Leonardo Ferrari. Un abbraccio, alla settimana prossima, ciao Simone. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.